Questo programma vi è presentato da in collaborazione con e con chiedo asilo. Risintonizziamo, comincia la settimana, ci risintonizza. In onda. Adesso siamo ecco. Non siamo più in replica, ogni tanto diciamolo, perché sì. Hai ragione, perché la gente può essere un po' sconvolta. Siamo in differita. Sì, differita differita, insomma, come si dice, diretta differita. Non so qual è. La sintonia però, quando diciamo le cose che non vanno bene, ecco, la via. Sintonia va via da sola. Ecco, ci siamo, allora, Drago, lunedì, cominciamo come si deve, lunedì, schiariamoci la voce, per esempio. Come? Così. Okay, questo è un cantante lirico. Questo è Simon Le Bon. Ma non ci posso credere. Nel retropalco dell'Arena di Verona quest'estate. Vabbè, però. È serio, fa gli esercizi. La voce ce l'ha, che tu ne dica, la voce ce l'ha. La voce ce l'ha, però la fa andare tutta lì. La foce del fiume ce l'ha. La fa andare tutta lì, quando fa 3-4 volte, poi va sul palco ed è completamente afono. Ma no, questo lo dici tu. Comunque, insomma, è un grande inglese. Ma di grandi inglesi noi, Che bello aggancio. No, tra l'altro i Duran Duran hanno suonato per le Olimpiadi. Ah, ecco, perché infatti tu sapevi che io volessi parlare di chi. Certo, mi pare nel concerto prima delle Olimpiadi. Non quello che chiudeva, quello che apriva le Olimpiadi. Era l'inno inglese, perché stiamo per parlare della regina Elisabetta. Ma perché dobbiamo parlare? Perché la regina Elisabetta ha fatto la più grande bambinata di quest'estate. Insomma, voglio dire, una regina del grande impero britannico. Cosa fai? Perché adesso i polli? Cos'è? Il pulcino pio? Nel senso che la gallina, insomma. La regina d'Inghilterra si è lanciata dall'elicottero insieme a James Bond. Sì, insieme a Daniel Craig. Che, James Bond. Nessuno ormai, ma nessuno dice che lui è James Bond. Perché non è entrato nella fantasia come altri James Bond. Comunque, no, ti devo dar ragione sul fatto che la regina così si è prestata a fare un po' la bambina alla veneranda età di, non lo so, 86 anni, 86. Mi sembra. 85, 86. Sei anni. E quindi va bene, però ti ripeto, Daniel Craig è lui il vero James Bond. Ma certo che lui, perché tu chi hai in mente, scusami? Io non so, Sean Connery e Roger Moore. Ma Sean Connery e Roger Moore ormai sono tutti e due. Come no, sono tutti e due vivi e vegeti. Ecco, sì. Non so Roger Moore, ma Sean Connery ogni tanto ancora lo si vede. È del 1930, quindi quanti anni ha? 82. Comunque, insomma, la regina Elisabetta, alla sua veneranda età, gioca a lanciarsi, anche se per finta, dall'elicottero. Proviamo a immaginarci, non so, facessero le Olimpiadi a Roma. Sì. Cosa, non so, Napolitano che, sì. Che si butta dall'elicottero con chi? Con Totò. I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Sembra soprattutto il nome di un formaggio. Sì, in realtà è il nome di una. Ho scoperto, è il nome di un paese. Di un paese, non mi ricordo dove, però c'è un paese nella bassa. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Casaleggio. Casaleggio, che può essere un formaggio perché uno perché il casale, no, il taleggio, soprattutto. Entrambe le cose. Vabbè, comunque. Ma in realtà il problema di Gianroberto Casaleggio non è che siamo noi a inventarcelo, ma sono i capelli. Cioè, perché adesso tu hai questa mania qui, però insomma, se uno è un po' eccentrico e vuole portare i capelli lunghi, appunto per questo, vuol dire, ma lui non vuole essere tacciato, non vuole essere preso come un guru, come una non persona. Non vuole essere preso per il culo, e nemmeno per un guru, hai ragione. Non vuole essere preso per un guru. Sì, però voglio dire, se si tagliasse i capelli, che ne so, come Tremonti. Ma vabbè, pensa a Casaleggio con il taglio di capelli di Tremonti. Magari si dà anche una spruzzata di bianco. Ma nessuno lo riconoscerebbe più, forse. Ma lo prenderebbero molto più sul serio, scusami. Voglio dire, che cosa nasconde la pettinatura di Casaleggio? Ma perché deve nascondere qualcosa? Ma perché secondo te uno con i capelli così è una persona. Voglio dire, anche la sessualità di Casaleggio. Vabbè, ma insomma, quella, insomma No, come vabbè, insomma, io ho chiesto un sacco di donne e mi dicono: no, uno con i capelli così è impresentabile, cioè non ci andrei mai solo perché hai i capelli così. Invece piace a Beppe Grillo. Ma Beppe Grillo, che è uno tutto così sospettoso, che ha sempre paura che tutti lo freghino, eccetera, come ha potuto, secondo la tua teoria, fidarsi di uno con i capelli come Casaleggio? Questa è una domanda. Infatti, se Casaleggio fosse un antagonista di Grillo, che battute potrebbe fare Grillo sui capelli di Casaleggio? Farebbe, sì, sì. È tipo? Farebbe, fane una. Quindi si occupa di strategie di rete. E io mi sono sempre occupato di strategie della tensione. Sì, ma i capelli, Grillo. La tensione se l'è presa lì una scarica elettrica a Casaleggio e sono venuti i capelli così. Il massimo che mi viene da pensare. Vedi che svia, però. Non ti risponde mica sui capelli. Perché sui capelli non si vede che lui si fida lo stesso. Capelli o non capelli. Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompermi. Oh yeah. Ma cosa ho Iedra? Con chi stai parlando? Sto facendo Clint Eastwooding. Sì, parlare con una sedia vuota. Ho visto, è bravo. È di gran moda su YouTube. Sì, quindi adesso, se qualcuno ci riprendesse, potremmo mettere questa bellissima canzone come simbolo cantato del Clint Eastwooding. Clint Eastwooding, allora, anche voi fatelo sempre. Adesso siediti su quella seggiola. Però non è un'idea nuovissima, perché scusa, il bambino Alberto lo fa da anni e anni che parla con una seggiola vuota, anche senza seggiola, insomma, parla con Gildo. Quindi e ora, bambini, ricreazione. Gildo, senti un po', ma quelle seppie ripiene che abbiamo mangiato ieri sera a casa tua erano buone, no? A te niente, non ti ha fatto niente, no? Forse... Cosa? Cioè, normale, no? Normale! Non ti ha fatto venire nessun problemino? No, perché... infatti, no, perché io stamattina... Cioè, erano buonissime, mi raccomando, dillo a tua mamma. Però stamattina sono leggermente costipato, mi sento un po', come dire, oppresso, no? E... cioè, tipo, sai quando ti scappa, no? Quando ti scappa? È un po' urgentemente, capisci? È quello, solo che io ho un problema, che... a casa mia non ho problemi, cioè, sia chiaro. Sì, sì. Fuori casa mia, andare, cioè, a gabinetto, come si dice, mi, so come dire, mi inibisce. Cosa? E tu invece, cioè, non ho capito. Se ho sentito, dici qualcosa di sensato. Quindi, tua mamma, potresti fare anche fammi un favore, perché al limite serve per il medico, no? Se continua questo problema. Chiedili, cioè, che erano buonissime. Il bambino Alberto chiede, con la bontà di sei piedi pieni, cosa erano fatte. Perché ci sono piaciute tantissimo. A parte quel piccolo problema della costipazione, no? La costipazione è seria, perché io adesso qua, per esempio, non ce la faccio più, no? Quindi non è che possiamo, cioè, io qui devo farla per forza. Per forza? Per forza, tu lo capisci, no? Allora, solo che io non riesco ad andare qui nei bagni dell'asilo. Ho il terrore che entri qualcuno, senti dei rumori e... capisci? Infatti! Ma a me basta che, anche se mi chiudo dentro, basta che qualcuno muove la maniglia e... cioè, viene... sai, presente la pelle d'oca, no? La vampata in faccia e poi ti blocchi, no? Ti blocchi! E poi ti blocchi e non ti muovi più, no? Perché dici, vado o non vado, non sai cosa devi fare. Vado o non vado? E quindi avrei bisogno di qualcuno che sta davanti alla porta, no? Come capisci? Per anticipare, no? Per prevenire. Prevenire! Quindi se tu vieni con me... tu vieni con me? Al bagno, no? No, tu vieni con me... io vado, tu vieni, mi segui, perché io entro in bagno al gabinetto. Sì. E tu stai fuori dalla porta. Infatti. E fatti capito. Allora andiamo. Andiamo, no? Di là. Andiamo di là. E in bagno, no? Io vado al gabinetto. Io e tu stai nell'antibagno davanti alla porta per dire: uè, uno capisce, è occupato, no? Me ne vado. Capito? Me ne vado. No, non tu. Tu devi stare lì, perché sennò io poi dentro sento uno con la maniglia ta-ta-ta-ta che viene la vampata, no? E mi era la pelle di capone. Sì. È presente quando... no. No. No, cioè... quindi hai capito? Andiamo, tu stai fuori dalla porta. Me ne vado! No, te ne vai, andiamo noi. Tu vieni con me. Tu vieni con me. Seguimi. Io entro in gabinetto e tu stai fuori dalla porta. Tu stai fuori dalla porta? No, allora... no, io come faccio fuori dalla porta? Io devo fare la cacca. io devo stare nel gabinetto, tu stai fuori dalla porta a fare la guardia. Ti piace fare la guardia? Come giocare? Giochiamo. Fai la guardia, devi curare il carcerato, no? Il carcerato sono io, sono chiuso nel bagno. E tu sei la guardia che deve fare il secondino. Tu devi fare il secondino? No, io sono il carcerato chiuso in bagno, no? Che non può uscire. E tu devi curare. Guai se qualcuno entra qua, no? E tu non puoi uscire. E non posso uscire, perfetto. Situazione perfetta per me in quel momento che devo evacuare, no? Sì, ma non l'edificio. Capito? Perché, capito? Evacuare. Ho il problema della e le seppie, no? Le seppie ripiene. Le seppie! Si è già dimenticato? Cioè, un minuto fa. La memoria leggermente. Cioè, come dire, che ti. Va via come la sabbia, no? Ho scritto tramo sulla sabbia e il vento l'ha portata via. Cioè, questo è il problema. Portata via! È tutto, l'ha portata via. Tutto! E quindi io cosa faccio? Infatti, basta, è troppo tardi. E me la sono fatta addosso. E per forza, tu non hai fatto la guardia? Mancano 95 giorni alla fine del mondo. 95 giorni, Drago, sempre meno, cioè... Ho capito, ma tutte le volte devi... Adesso tutti i giorni noi avremo questa specie di tutti i giorni o quasi tutti i giorni, certo, ecco. Perché arriviamo perché alla gutta scavat lapidem. Ecco, ma alla fine del mondo perché il 21 dicembre cosa succede? Non si sa esattamente che cosa arrivano succede. Arrivano gli alieni, chi arriva? Non lo so, un asteroide, gli alieni, tutti Gadlerner, che la glaciazione... Ma come Gadlerner? Si pensa, gli alieni arrivano un'invasione di Gadlerner? Tutti come Gadlerner, no, sarebbe brutto. Beh, sarebbe peggio se fossero dei calamari. O è peggio Gadlerner? Ma... Li avete visti i disegni bellissimi di Facappa, quelli che presentano quelli le puntate bellissimi li faccio io sul nostro Facebook, quelli sul bruttissimi Facebook li fa Drago, quelli bruttissimi li farete voi se ce li mandate, insomma. E mandateceli, però chiedo asilo @radio24.it. In questo caso potreste mandare, non so, o un ritratto di Casaleggio oppure la regina con James Bond, oppure anche un calamaro che assomiglia a Gadlerner.